andiamo avanti ancora per un po', quindi vi prego di armarvi di pazienza, anche perché poi, come ovvio, c'è proprio per una questione di schieramento complessivo, saranno delle repliche sicuramente a partire da quella di Alberto Burgio. Daniele Farina del Centro Sociale di Leoncavallo. Ma io faccio un intervento molto breve che coglie quindi solo un paio, credo, degli aspetti che citava Bonomi all'inizio, di quei tre che poi erano quattro grossi nodi su cui si sarebbe incentrato il dibattito. Ma mi sembra anche, tutto sommato, che siano anche quelli che abbiano suscitato la maggiore effervescenza, sono quelli poi che saranno anche oggetto delle repliche che citava prima Primo. Il tratto che ovviamente ho scelto per fare questo breve intervento è quello della visuale che si può avere delle trasformazioni produttive e sociali da alcuni luoghi di questa città, da alcuni luoghi di questo paese. Siamo in uno di questi luoghi, quindi c'è ovviamente una visuale abbastanza particolare, in fondo anche riduttiva, però è anche un modo, credo, di dare fondatezza, d'esperienza o fondatezza sociale, se preferite, a quello che si dice, ragionamenti che si portano. In particolare c'è un piccolo tratto che differenzierei da quanto prima è stato detto, e che in questa specifica visuale la comprensione del mutamento, sia che sia un modo di produzione completamente nuovo, questa convenzione che chiamiamo postfordismo, sia che sia la trasformazione, una trasformazione sul fusto di un vecchio assetto, e credo che su questo il dibattito sia quanto mai aperto, però procede di pari passo nella nostra esperienza quotidiana, nella mia almeno esperienza quotidiana, con l'interrogazione sulle forme della politica, sulle forme dell'organizzazione degli interessi, sulle condizioni entro le quali i soggetti sociali, che un tempo si chiamavano subalterni, ma penso che lo si possa fare con tutta tranquillità anche oggi, chiamarli così, sono in grado, la direzione, di dare al mutamento un esito di parte, in qualche modo, e la parte dovrebbe essere la nostra. In questa prospettiva, ecco qui il tratto distintivo, un giudizio assolutamente ingiusto e sommario però sugli interpreti delle trasformazioni, non sui protagonisti, sugli interpreti delle trasformazioni, in qualche modo è necessario darlo sotto il profilo preventivo. Dà senso e fondatezza a quello che si dovrà ovviamente fare, oltre a quello che si dovrà analizzare, approfondire, sviscerare e ancora credo per un bel tratto di tempo. E in qualche modo mi fisso, do due flash molto brevi su quello che abbiamo a disposizione oggi per fare questo tipo di passaggi. Uno riguarda gli anni Ottanta e uno riguarda i precedenti, due frasi, due giudizi. Io, i compagni sanno che sono molto critico e ingiusto rispetto alla mia generazione, dico che ci ha consegnato un non quadro politico in realtà, un'informazione molto contraddittoria che è iniziato da pochi anni, sicuramente sulla fine degli anni Ottanta, e continua con sempre ulteriori contraddizioni. È quasi un quadro politico dotato di una certa obsolescenza, cioè un certo invecchiamento repentino. È un quadro che è sempre in ritardo, questo è il dramma credo degli ultimi anni, è in ritardo rispetto alle trasformazioni, è in ritardo rispetto al modo in cui l'organizzazione capitalistica del lavoro evolve e soprattutto è in ritardo sulle risposte che è in grado di dare essa stessa. E quindi sostanzialmente la storia di questi ultimi anni è in fondo impietosamente la storia di questo ritardo. Dall'altra parte va dato però con chiarezza anche un giudizio altrettanto spietato sulla generazione precedente, che però a suo vantaggio ha quantomeno il fatto di essere fuoriuscita da uno dei più forti e formidabili processi repressivi dell'Europa occidentale, e che è sostanzialmente un corpo politico residuale che, tranne pochissime eccezioni, non è riuscito nel complesso a riadeguare il proprio ruolo, quasi fosse i superstiti di guerra, e una specie di intercapedine che è spezzata tra l'altro tra ciò che vediamo, ciò con cui interloquiamo anche oggi, in modo quasi irrecuperabile, cioè da una parte il dibattito dotto, da una parte un avanzamento di carattere teorico importantissimo, la ricollocazione per altro verso all'interno delle organizzazioni rinnovate del movimento operaio, penso a Rifondazione Comunista, penso ad altre cose, e però dall'altra parte in questa spezzatura c'è in realtà un generazionale abbandono, una incapacità di riadeguamento che citavo prima. Questo perché dico questo, perché faccio questa digressione preventiva? Perché c'è un problema, che poi è un nucleo anche di quello che intendo dire, c'è un problema di operatività delle categorie, dell'analisi e della politica. Per questo io ho scritto, abbiamo scritto anzi, che al perfetto immobilismo di Rossana Rossanda e all'imperfetto immobilismo di Alberto Burgio, dico io per quello che ha detto oggi, per quello che ho sentito oggi, preferisco in qualche modo la parzialità, se vogliamo, la contraddittorietà, ahimè, più che la parzialità del discorso che faceva Marco e che ha scritto Marco in questi mesi, perché consente comunque a questi soggetti una padronanza e un'operatività delle categorie che rimandano in qualche modo ad un percorso di carattere costitutivo o costituente, a cui mi sembra che Marazzi facesse in qualche modo riferimento. Tolta questa digressione di mezzo, che comunque parte, credo, interessante, no, di quello che mi sentivo di dire, c'è da entrare nel merito di alcune questioni. Beh, penso abbiamo speso gli ultimi mesi per in qualche modo barcamenarci all'interno di categorie residuali, ovvero tutto ciò che viene definito residualmente è impreciso, lo abbiamo visto con il lavoro autonomo in maniera assolutamente drastica. Concordo, lo vediamo col discorso del terzo settore, in cui l'abbiamo detto e ripetuto, intervengono e in qualche modo vi sono racchiuse soggettività, realtà, che nulla hanno a che vedere forse se non l'appartenenza al pianeta Terra in qualche modo, e quindi concordo qui sì con Alberto Burgio sul fatto che bisogna essere più precisi, bisogna cercare di essere assolutamente più precisi, bisogna assolutamente non cadere nella trappola di questa definizione residuale, per cui ciò che non è stato e non è mercato necessariamente questo settore terzo, come se non ne potesse esistere un quarto, un quinto, e dentro questo terzo eventualmente una partizione infinita e soggettiva. Un problema, questo importante, io non so se la risposta di una definizione no market che si debba accostare in qualche modo a quella no profit sia pertinente, ma certo comunque è una proposta che va in questo senso. È un problema reale, non è un problema solo formale, nominalistico insomma, perché in fondo io credo che quest'area da cui io guardo, cioè l'area dei centri autogestiti, che comunque è richiamata in continuazione nel discorso, tende in qualche modo a scrivere per sé un'autonomia di carattere normativo. È chiaramente per sé, ma vuol dire per tutti, e quindi vi è anche un portato di carattere universalistico in fondo, di vecchia e cattiva memoria forse, dentro questo tentativo. Tende a scrivere per sé un'autonomia di carattere normativo, che ne evidenzia o tende ad evidenziarne continuamente la specifica differenza e la irriducibilità al mercato, sia pure il mercato di carattere solidale. È un'autonomia normativa che è scritta in larga parte con ciò che si chiama oggi legalità e con il tentativo di ripristinare per questa la legalità violata, ovviamente un tentativo di coatto fatto all'esterno, fatto da magistrati ed esecutori che hanno compreso molto bene, io credo, molto meglio di una certa sinistra, qual è l'importanza della partita che si gioca. Quindi c'è un'autonomia normativa che si tende a stabilire, un'autonomia che va molto al di là delle regole, dei rapporti, direi io, con cui si vorrebbe ordinato il settore no profit. Anzi, io dico, posso così azzardare un giudizio, in fondo non stiamo facendo altro che tentare, nella nostra forma più avanzata ovviamente, non è un, si può generalizzare in assoluto per esperienze dei centri sociali, dobbiamo concepirci quasi, stiamo tentando quasi una dilatazione dei limiti in cui si vorrebbe incardinato questo benedetto terzo settore, uno strumento di sfondamento quasi di alcuni dei vincoli o dei rapporti con cui si è costruito, prefigurato e strategicamente concepito il discorso del terzo settore, perché non vi è dubbio che su questo io credo Burgio abbia perfettamente ragione. Non vi è dubbio che vi sia un trade-off oggi, no? Un rapporto inversamente proporzionale tra quello che è la dismissione graduale dello Stato sociale e quello che è l'estensione del terzo settore, ed è oltretutto un rapporto inversamente proporzionale, ma non egualmente proporzionale, è un rapporto ovviamente in cui non c'è paragone tra quella che è l'estensione del terzo settore o del no profit, come volete, e quella che è la dismissione dello Stato sociale. Ecco, su quello però che deve essere secondo me molto chiaro, e che credo sia chiaro a tutti, che la progressiva dismissione del welfare è a sua volta la vittima in qualche modo della fine del compromesso che chiamiamo anche qui per convenzione, ma più consolidata, direi fordista, e che in qualche modo il no profit con questa estensione del settore non è la causa della dismissione del welfare, ovviamente. Non può essere, in qualche modo, non ha senso, credo, fare, come invece ho letto anche sulle colonne del manifesto, attribuire in qualche modo al no profit quello che è invece la responsabilità di un orizzonte strategico e di un orientamento generale che nessun governo della sinistra, pure Prodiano, chissà di quale sinistra o centrosinistra riuscirà a modificare. Credo che non ci sia nulla di più sbagliato che bastonare come collaborazionista chi opera nel terzo settore, perché questo io credo sia un'operazione di carattere suicida, senza naturalmente disconoscere, perché questo dobbiamo sempre aggiungere, i meriti del volontariato, eccetera, eccetera. Bisogna invece cercare in qualche modo la strada entro la quale sia possibile spezzare questo trade-off, spezzare questo rapporto inversamente proporzionale, per cui alle risorse direttamente erogate al settore pubblico e alla loro graduale decadenza, dismissione, fa invece a contrappeso un meccanismo per cui questo settore tende a crescere, con caratteristiche di controllo sociale sicuramente estremamente ampie, il terzo settore, eccetera. Quindi c'è un problema di conciliare la rigidità dell'opposizione, credo, su alcune battaglie nodali, o anche di carattere positivo, e al tempo stesso la ricchezza della progettazione. Io credo sia un meccanismo che posso capire nella logica delle parrocchie contrapposte, ma e non sono solo parrocchie intellettuali, sono partiti con tanto di segreterie, nomi, cognomi, piuttosto che centri sociali con la loro storia, pezzi di volontariato con le loro appartenenze, e dicendo comunque non vi sia nulla di più folle che questo tentativo di contrapposizione. Bisogna in realtà puntare alla frattura, ripeto, di questo rapporto di carattere inversamente proporzionale. Chiudo con due o tre battute veloci. Il terzo settore non è la risposta, non è la soluzione di nessun movimento contraddittorio tra lo sviluppo della produzione e delle sue tecniche e la riduzione dell'occupazione, processo strutturale, non è assolutamente la soluzione di questo. Mi ha reso particolarmente astioso il fatto di aver letto che alcuni degli interventi su questo discorso venivano passati anche dalle colonne del manifesto con la didascalia emergenze occupazionali, come se esistesse questo problema non c'è, non è assolutamente la soluzione di questo. Semmai su questo versante, i compagni lo sanno, che lo ripeto da un sacco di tempo, e vedo che anche Revelli oggi lo pensa, insomma, in qualche modo, bisogna arrivare invece su questo, probabilmente a concepire che le proposte che vengono fatte su questo terreno sono proposte socialmente fondate tutte, ovvero che non vi è contraddizione tra le proposte di riduzione d'orario a parità di salario, netta, secca, improvvisa, eccetera, non vi è contraddizione con i lavori socialmente utili, di lunghine di altri, nonostante qualcuno ritenga che siano un'idiozia, non mi interessa entrare nel merito, e tantomeno sono in contraddizione con ciò che mi è assai più vicino sotto il profilo così cognitivo, di consenso o altro, sulla possibilità che in questo Paese si strutturi un qualche cosa che chiamiamo reddito di cittadinanza, reddito universale garantito, come volete in qualche modo, ma che in qualche modo preveda una forma appunto reddituale o una forma comunque retributiva sganciata dall'effettiva erogazione della prestazione lavorativa. Non c'è contraddizione tra questi. Un progetto di carattere strategico deve prevedere la fondatezza sociale, cioè la pertinenza a soggetti diversi di ciascuna di queste proposte, e pensare a queste eventualmente come una manovra di politica economica che chiamiamo sul lavoro, anche se non è sul lavoro, è anche sul rifiuto del lavoro, al limite, ma comunque sul sistema complesso delle garanzie. Una brevissima interlocuzione, mi sembra che comunque questo processo può essere fatto partendo dai soggetti reali e dalla loro forza eventualmente contrattuale. Ben difficilmente è un qualche cosa che può essere attribuito a ciò che è la fiducia riposta o la petizione pur mediata alla politica con la P maiuscolo nei confronti di uno Stato forte e centralizzato che possa permettere questa forma di redistribuzione. Se il conflitto deve essere, non può che partire eventualmente dal carattere costituente che alcune esperienze possono assumere, non solo i centri sociali, ma ci mancherebbe, all'interno di questo Paese. Dico questo perché io non so se è possibile fare un tipo di polarizzazione per cui si può contrapporre fortemente il tentativo di impedire l'identificazione tra economia e società, questo meccanismo invasivo dell'economia sulla società, attraverso la scelta della socialità o la scelta della politica. Mi sembra che sia questo un ragionamento viziato all'origine, ovvero un ragionamento che prevede e che rimanda a una concezione della politica che prevede organismi alti, sintetici, non li chiamiamo partiti, ma si potrebbe tranquillamente farlo, e invece relega altri soggetti sociali ad altre occupazioni, alla cultura piuttosto che al tempo libero, oppure comunque al sociale nella forma indistinta. Questa mi sembra un'opinione, questa divaricazione tra la politica alla P maiuscola e le altre attività umane che sono competenze di altri soggetti, una non accettabile semplificazione di un rapporto complesso e anche, io credo, di un ruolo complesso, di una natura complessa che hanno oggi alcuni organismi che, ripeto, sono dentro il terzo settore semplicemente perché noi non abbiamo avuto la capacità ancora di essere egemoni culturalmente dentro una proposta di carattere diverso.